giovedì 16 gennaio del 2014, 87.9 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180-4001 da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56-00185 Roma. Oppure si può andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sulla homepage c'è l'opzione sostieni dove c'è la modalità PayPal per sottoscrivere. Allora, questa è Visionari. Ogni giovedì dalle 14 alle 15 il cinema su Radio Onda Rossa. Per saperne di più la scaletta di oggi, le informazioni in generale le trovate sul sito della radio alla voce trasmissioni Visionari, e poi c'è anche la pagina Facebook. E per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Maria Coletti, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovato Federico, grazie per avermi chiamato. Allora, con te per parlare di una rassegna, L'Africa in Italia, che si terrà al Cinema Trevi qui a Roma in due giornate, 17 e 18 gennaio, di cui tu sei la curatrice. Allora Maria, raccontaci un po'. Sì, torniamo con gli appuntamenti di Cinema Africa in Cineteca, al Cinema Trevi, e questa volta per me è un appuntamento particolare perché diciamo si tratta non solo di far rivedere o di riscoprire insieme agli spettatori alcuni titoli un po' dimenticati della storia del cinema italiano, ma anche quella di parlare di un libro uscito nel 2013 a cui tengo particolarmente, ovvero L'Africa in Italia, per una storia postcoloniale del cinema italiano, un libro curato da Leonardo De Franceschi, nel quale però anche io ho contribuito con un saggio, diciamo, che riguarda il periodo dal muto ai primi anni 40, diciamo, periodo coloniale o giù di lì, insomma, diciamo, almeno nell'immaginario del cinema italiano. E il tema quindi di queste due giornate è proprio quella di andare a indagare o a ripercorrere insieme appunto il nostro cinema con uno sguardo particolare, cioè la presenza dell'Africa sia come personaggio, come soggetto, oggetto del racconto, che come cineasti, quindi registi, attori, tecnici africani o afrodiscendenti presenti nel nostro cinema. Un aspetto, come dire, poco ricordato, ma che pure è importante. Io tengo particolarmente appunto a questi due giorni perché, come dire, anche un'occasione per chi verrà di vedere dal vivo alcune delle persone che hanno contribuito al volume, da Anna Maria Rivera e Gia Passego, che hanno curato la prefazione e la postfazione, a alcuni cineasti che sono intervistati nel volume, Rashid Mnaji, il direttore della fotografia Tarek Ben Abdallah, l'attore Ahmed Efien, e quindi, come dire, è un po' una sorta di punto anche per noi, diciamo più o meno un anno di distanza, no, su queste tematiche. Per quanto riguarda le immagini, quali saranno le proposte? Allora, l'idea appunto che avevo, per quanto poi in maniera per forza ridotta, essendo due giorni, quindi più o meno 5-6 spettacoli, era quella di fare però un viaggio nel tempo. Quindi partiremo domani alle 17 con un film muto di 100 anni fa più o meno, perché del 1903, che è Zuma, che proiettiamo insieme alla Replace Film, che è singolare perché forse è il primo film italiano ad avere come protagonista un personaggio di donna africana interpretata da un'attrice italiana, ovvero Olga Mambelli, in arte Esperia. Poi continuiamo con Senza Pietà, un classico di Lattuada, alle 19, diciamo, a seguire appunto il corto. Anche questo è molto interessante perché molti di voi lo ricorderanno forse, ma forse anche qui è una delle prime, forse l'unica volta in cui John Kitzmiller, appunto attore afroamericano, ha un ruolo da protagonista o da coprotagonista insieme a Carla Del Poggio. Ed è anche questo un periodo molto singolare del cinema italiano perché tra l'altro proprio in una rivista dell'epoca, fine anni 40, primi anni 50, l'Italia viene additata dagli afroamericani appunto negli Stati Uniti come una specie di culla del cinema black, proprio perché qui gli attori afroamericani, mentre negli Stati Uniti si erano ancora agli albori, diciamo, della battaglia per i diritti civili, qui comunque erano attori e avevamo, insomma, anche quindi in film neorealisti, insomma film di qualità, di autore. E, poi appunto continuiamo alle 19:30 con la presentazione del libro, sì, insieme a un po' a tutti gli amici che ricordavo prima, e finiamo invece sul presente con due diciamo film che sono stati ancora pochissimo visti. Mi riferisco al corto Poveri Diavoli, che è una prima prova di Ahmed Fien, che ricordo appunto attore tunisino che però lavora moltissimo in Italia, che è appunto la sua prima prova dietro la macchina da presa, quindi come regista, e poi va a pensiero Storie Ambulanti, con cui ritroviamo, e ci fa molto piacere insomma di ritrovare ancora una volta Dagmawi Imer, che è un film che ha presentato tra l'altro proprio qui a Roma in anteprima a dicembre, e anche adesso, qui in radio. Sì, mi fa piacere, non mi ricordavo questa cosa. No, ci fa piacere anche noi appunto di avere l'occasione di farlo rivedere, perché appunto non so se quindi ricorderete, insomma, diciamo, prende spunto da due fatti di violenza e danni appunto di migranti in Italia. Una contro Mohamed Ba, l'attore che vive a Milano, che è appunto stato insomma, sì, accoltellato così in strada. Anche di Ba abbiamo avuto la testimonianza al telefono e abbiamo trasmesso un suo spettacolo, penso. Ah, ecco, sì, che poi lui appunto aveva pubblicato anche un libro, insomma, in qualche modo partendo anche un po' dalla sua storia, no? Il tempo è dalla mia parte, mi pare sia il titolo. Comunque, insomma, lui partendo appunto da Gmawi in Va Pensiero parte da questo caso insieme ai superstiti della strage di Firenze del 2011, per riflettere un po' appunto sulla situazione italiana, sul razzismo che c'è, su come diciamo le persone migranti che sono presenti nel nostro paese possono poi diciamo far fronte a questa condizione. A questo punto stavi terminando. Poi ricordare che ovviamente diciamo domani invito tutti a venire, perché sia prima che dopo la presentazione diciamo è un'occasione per scoprire appunto film poco visti o comunque che meritano di essere ricordati, ma la rassegna va avanti anche il giorno dopo, quindi sabato, con tre film diversi, anche questi che però aiutano come dire a avere uno sguardo così anche più più complesso appunto su, sì, quello che è il cinema italiano. Mi riferisco in particolare allo spettacolo delle 5, che riprendiamo di Uomini Duri, uno dei pochi esempi forse di black exploitation all'italiana, poi ribattezzata da alcuni come black spaghetti in quanto appunto diciamo era un po' un tentativo di far lavorare con due stelle della black exploitation americana, che erano Isaac Hayes e Fred Williamson, però in un contesto appunto in qualche modo appunto all'italiana, un po' come gli spaghetti western. Alle 19 invece avremo Bell'amico di Luca Dascanio, anche questo ci tengo particolarmente perché penso che sia stato un po' dimenticato poi come titolo, come operazione, però era molto interessante perché Luca Dascanio appunto il regista si mette anche in scena lui stesso come attore, e il coprotagonista Mariano Bartolomeo anche lui nei panni di se stesso, perché diciamo come regista angolano che interpreta appunto se stesso, e in qualche modo quindi incrocia il cinema verité con la commedia, e in maniera anche un po' politicamente scorretta, anche quello forse è un primo esempio, perché diciamo questa convivenza fra due registi in un appartamento viene un po' come dire messa in ridicolo, anche in qualche modo vengono fuori anche le difficoltà insomma, no, della convivenza, sì, fra persone magari diverse o con problematiche diverse. E finiamo, anche questo ci tengo molto perché diciamo grazie alla collaborazione con la produzione Indiana Production Company ripresentiamo Italian Movies, che era in realtà stato lanciato al Festival di Roma di 2 anni fa, del 2012, e che secondo noi insomma è un bel esempio di commedia intelligente, ben scritta, con un cast internazionale molto appunto che funziona a meraviglia secondo me, quindi insomma un'occasione anche per come dire ripercorrere la storia del cinema italiano in maniera non per forza così pesante o problematica, ma capire che la diversità anche nel cinema paga, nel senso che poi produce bei risultati, insomma, come dovrebbe esserlo poi anche nella società, nell'identità. Sì, sì. Bene Maria, allora a questo punto ricordiamo, allora hai detto per filo e per segno il programma, diamo i riferimenti internet per chi volesse avere maggiori dettagli. Sì, sul sito della Cineteca Nazionale, quindi www.fondazionecsc.it è possibile appunto ripercorrere, cioè rivedere nel dettaglio il programma anche con le sinossi. Siamo anche su Facebook con un evento che si chiama appunto L'Africa in Italia, Cinema Africa in Cineteca, L'Africa in Italia, quindi anche lì potete trovare tutte le informazioni, tra l'altro anche molti foto di locandine o foto di scena che abbiamo trovato dei film, e vi aspetto tutti domani alle 19:30, dove sarà possibile, tra l'altro, per chi fosse interessato, anche prendere una copia del libro. Bene, anche stavolta siamo stati a disposizione. Maria, facci sapere le prossime iniziative e ci risentiremo. Con quindi. Piacere, penso che torneremo, guarda, a marzo con Cinema Africa in Cineteca, forse riusciremo a avere dei film restaurati appunto dalla Cineteca di Bologna. Bene. Forse, quindi spero che se ci riusciamo, insomma, sì, spero di poter tornare a raccontarvi anche quest'altra avventura. Allora, a presto, un abbraccio. Grazie. Maria. Grazie. Ciao. Federico. Maria Coletti, curatrice della rassegna L'Africa in Italia al Cinema Trevi qui a Roma, 17 e 18 gennaio. È un piacere, Roberto Faenza, ben ritrovato. Piacere per me, perché come dicevo prima vi devono fare cavalieri del lavoro. Siete i più bravi di tutti quelli che si occupano di cinema in Italia. È un onore questa. Penso, non è una cosa che dico tanto per dirlo. Beh, mi fa particolarmente più puntuali, piacere. Più aggiornati, più socializzanti. Bene, bene. Sono qua, dimmi tu. È veramente un piacere. Allora, con te per parlare chiaramente del film Anita B, in uscita in sala oggi, giovedì 16 gennaio. E Roberto, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' di questa storia. Allora, Anita B è una ragazzina di circa 15-16 anni che esce da Auschwitz. Alla parola Auschwitz le persone si prendono paura. E infatti tu dicevi esci oggi in sala, ma esci in pochissime sale, perché gli esercenti italiani non hanno capito che film è. Credono che sia un film sull'orrore, mentre è un film su una ragazzina che esce e che vive dopo il campo. I campi non si vedono, ed è proprio una grande storia d'amore sullo sfondo del suo passato. Però ripeto, la parola Auschwitz fa ancora paura, e non si capisce che invece dobbiamo fare i conti con queste cose, soprattutto con quelli che sono riusciti a uscirne vivi, i ragazzini. Sì, ora sì. La realtà è che i ragazzini usciti vivi sono pochissimi, e hanno scritto in genere loro memorie 50 o 60 anni dopo che sono usciti. È stato il caso di Ionobeschi, quando ho fatto Jonakvis e la balena. Sì, sì. Ed è il caso di Eddie Brooke, che ha scritto questo libro di recente, quindi circa 60 anni dopo che è uscita, 13-14 anni da Auschwitz. Ecco, mi sono sempre chiesto perché. Perché probabilmente un'esperienza così veramente intensa, drammaticamente, richiede un fortissimo tempo di elaborazione. Bisogna anche elaborare i dolori. E devo dire che lo stesso tempo di maturazione che corre dall'uscita ai giorni d'oggi è un po' il problema che incontra Anita nella sua vita. Lei arriva in casa di una zia che è scampata e non riesce a parlare con nessuno di quello che ha passato, perché appena dice qualcosa su quello che lei ha vissuto, le dicono il passato è passato, dimentica. Sì. E riesce a parlare soltanto con un bambino di un anno, che ovviamente non la capisce, per cui quando lei racconta qualche episodio terribile il bambino si mette a ridere, perché non capisce di cosa parla. Sì, sì. E secondo me questa è una cosa così emotivamente che mi ha sempre molto colpito quando ho letto questo libro, ed è la ragione per cui ho voluto fare questo film. Sì. Oh, una cosa, Roberto, nel film l'esperienza dei sopravvissuti è un po' emblematica di quello che avviene in generale, perché da una parte, appunto, come raccontavi tu, ci sono quelli che vogliono rimuovere il passato e pensare al futuro, e poi c'è la protagonista, e una delle battute chiave che dice è che senza memoria non siamo niente. Beh, io penso che questa frase si addica molto a noi italiani. Sì. Perché noi italiani non ricordiamo quasi nulla di quello che, io dico, non dico del primo dopoguerra, ma noi non ricordiamo nulla delle stragi, del terrorismo nero, rosso, verde. Cioè, noi abbiamo i ragazzi italiani non sanno quasi nulla se non 4-5 anni prima, perché è un paese che ha fatto della la memoria per noi è un delitto, ed è il problema che incontra questa ragazzina, cioè nessuno vuole ricordare. C'è una cosa molto bella che dice Jean Améry, che è un altro sopravvissuto ai campi, tra l'altro compagno di baracca di Primo Levi, che dice che Dio ha dato all'uomo la dimenticanza e poi ha messo al servizio di questo problema due angeli, uno che insegna ai bambini a ricordare, l'altro che gli tappa la bocca per dimenticare. e che è un po' quello che incontra Nanita davanti a sé, che incontriamo anche noi quotidianamente tutti i giorni. Un altro aspetto è quello dell'Ungheria. Ultimamente stiamo notando, insomma, a livello globale, riguarda soprattutto l'Europa, questo discorso, una pericolosa tendenza all'autoritarismo e a una anche tendenza destrorza di quel paese, e che era già difficile allora per gli ebrei. Beh, è un ritorno purtroppo a dei sentimenti non soltanto antisemitici, ma proprio quasi filonazisti, sì, di destre estreme, vediamo a parte l'Ungheria anche in Francia. Ma in realtà, quando ci sono grandi crisi economiche, le minoranze pagano sempre, diventano un capro espiatorio. Le persone, anche le meno politicizzate, quando c'è una grande crisi devastante come quella di oggi, deve trovare un capo espiatorio, deve trovare qualcuno con cui prendersela, e ce la si prende sempre con le minoranze. Gli ebrei sono una minoranza, gli zingari sono una minoranza, o anche minoranze etniche che appunto vengono vissute come nemici solo per essere diversi, come gli omosessuali, mm-hmm, e come tutte le marginali. Sì. Oh, Roberto, rispetto al testo di riferimento, volevo sapere su cosa hai voluto puntare, e anche il grado di fedeltà alla pagina che hai mantenuto. Allora, fedeltà, io penso che non bisogna mai essere troppo fedeli, sì, alle, sì, sì, pagine scritte. Ma io ho dato un'impronta molto femminile al film, per cui alcuni personaggi che nel libro erano maschili io li ho resi donne, tipo la traghettatrice interpretata da Jane Alexander, sì, o tipo, ho fatto il contrario, alcune donne le ho resi uomini, tipo una ragazza che nel libro era una ragazza, l'ho fatta diventare David, l'amico con cui lei vorrà poi fuggire in Palestina. Questo perché ho voluto dare al film un po' un'impronta femminile, un film girato molto in soggettiva, molto come visto da Anita, e quindi c'è anche una specie di ingenuità, di candore. Non è un film che pretende di essere oggettivo o storico. Sì. Oh, Roberto, volevo chiedere anche rispetto all'uscita in sala, in quante copie, se ne sei già a conoscenza, no, uscirà, guarda, oggi? Sono a conoscenza di pochissime copie. Pochissime copie. Veramente sorpreso. Pensa che a Milano non esce, per dire. Ah, ecco. Speriamo che esca la prossima settimana. Io penso che questo è un discorso che voi dovreste cominciare a fare, voi, dico, giornalisti. E il problema delle sale, cioè, sì, ci sono dei circuiti in cui il più forte, proprio a livello cannibalistico, impedisce al più debole di sopravvivere, soprattutto alla produzione indipendente. Tra l'altro, film molto forti che non hanno neanche bisogno poi di prendere spazio anche a dei film di un certo genere. E poi oggi c'è questa tendenza a voler mostrare solo film comici, commedie più o meno scollacciate, ed è secondo me quello che fanno gli esercenti. Tanto loro non sanno neanche cos'è Anita B, nessuno di loro l'ha visto e quindi lo giudica. Hanno sentito la parola Auschwitz e allora pensano subito che sia un film sui campi di concentramento, mentre in realtà è una grande storia d'amore dopo i campi di concentramento. Però dicevo che il vero problema dell'esercizio è di fare dei torti al pubblico, cioè si depriva il pubblico di prodotti altro, che non sono solo commedie, che non sono soltanto risate. Cioè c'è un pubblico che non vuole ridere soltanto, vuole sicuramente divertirsi ed emozionarsi, e Anita B è un film emozionante, però vuole anche del pensiero a volte, vuole anche riflettere. Ecco, questo atteggiamento degli esercenti di essere così univocamente fissi su un certo tipo di cinema e non avere un'ampia gamma è proprio un errore che fanno anche strategico, perché alla fine deluderanno sempre di più un pubblico anche più adulto, psicologicamente parlando, più maturo. E poi io non ho mai visto dei commercianti che espongono una merce e non sanno che merce espongono. Cioè, io non ho mai visto uno che vende scarpe e non sa che come è fatta la scarpa che vende, no? Ecco, questa cosa degli esercenti che non sanno nulla dei film che espongono è veramente terribile. Non è così in Francia, dove c'è un'offerta di prodotto 10.000 volte più interessante della nostra. E comunque noi sottolineiamo il fatto che anche in vista della giornata della memoria esce il tuo film, ossia Anita B, e poi per due giornate il film di Margaret von Trotta, che ha avuto modo, un altro film importante, ho avuto modo di vederlo ieri mattina a Narend, un film importante, insomma ci sono due uscite di rilievo, ecco. Ti volevo dire due cose, che noi il 27 gennaio, a parte che faremo molte proiezioni nelle scuole italiane, lo presentiamo a Gerusalemme ed è il film della giornata della memoria di Gerusalemme, una cosa veramente importantissima, c'è una televisione di tutto il mondo, dei premi Nobel, sì. E poi volevo ricordare che nel mio film c'è questo attore Robert Sheehan, che è un po' l'idolo dei teenager, delle teenager in particolare, che in questi giorni è stato letteralmente assediato dalle ragazzine, pensa che sono arrivate 200-300 da tutte le regioni d'Italia anche per vederlo un minuto e questo per esempio fa pensare a chi è il fan, che cosa c'ha in testa il fan che si mette in viaggio 10 ore di treno per vedere un minuto il suo idolo. Sarebbe bello fare un'inchiesta sui fan, me la propongo. Grazie Roberto, io ti abbraccio e complimenti per il vostro lavoro, andate avanti, grazie. Grazie ancora. Ciao. A te, ciao, un abbraccio, a presto. Roberto Faenza, regista del film Anita Bin, uscita in sala a partire da oggi 16 gennaio. Un ben ritrovato ad Andrea Occhipinti della Lucky Red, ci sei? Buongiorno a tutti. Oh, auguri con un po' di ritardo, però insomma in questo inizio di 2014 ci trova di nuovo insieme a te. Grazie anche a voi, buon anno. Allora Andrea, con te per la distribuzione di Nebraska, in uscita in sala oggi, giovedì 16 gennaio, intanto ti dico, a mio avviso, il miglior film di Alexander Payne. Sono d'accordo, sono un estimatore di Alexander Payne fin dal primo film, dai primi film, da Sideways, da Proposito Smith, anche l'ultimo Paradiso Amaro con George Clooney. E mi piace moltissimo questa caratteristica che lui ha, questa capacità di raccontare le umanità, le famiglie, con affetto, con ironia, con dei dialoghi fantastici, cioè c'è proprio, si sente la vita che pulsa, si sente, sì, una verità, sì. E un affetto che ha per lei. È una leggerezza nella modalità con cui racconta, insomma, questa America, in questo caso questo rapporto fra padre e figlio attraverso il Nebraska, attraverso l'America. Sì, sì, sì. Quindi partiamo da questo presupposto che noi seguiamo il lavoro di Payne da tempo. Andrea, per chi ci ascolta, come lo racconteresti in breve? Ma come dicevo, è la storia. Intanto il tono è molto importante, è un tono leggero, ironico, ed è la storia di questo straordinario Bruce Dern, che ha vinto a Cannes il premio, questo vecchio forse un po' andato di testa, che è convinto di aver vinto $1 milioni perché ha ricevuto una di queste lettere, così, che dice: lei è il vincitore del $1 milione, deve andare a ritirarlo, ed è convinto e vuole andare assolutamente a ritirarlo. La moglie gli dice che è scimunito, rincoglionito, e il figlio, che in qualche modo, non tanto per come dire, per assecondarlo semplicemente, ma per ritrovare in qualche modo un rapporto con il padre, decide di accompagnarlo in questa avventura e si mettono in viaggio attraverso l'America e vanno anche nel paese d'origine di quest'uomo, dove ritroveranno la famiglia, dove lui dice a tutti che sta per diventare milionario, per cui in qualche modo scatenando anche delle, come dire, delle golosità, tutti quanti cominciano a dire: ah sì, allora ce ne darai un po' anche a noi, ma ti ricordi che io ti ho prestato dei soldi? Per cui si innesca una situazione anche abbastanza paradossale e divertente. Sì. E naturalmente il viaggio è un po' questo, cioè è il recupero di un rapporto, più che naturalmente poi quando arriveranno lì, adesso non voglio dire quello che succede, ma insomma in qualche modo la cosa fondamentale è il rapporto che si instaurerà fra questo padre e questo figlio, fra questo figlio e questo padre, attraverso un po' anche il passaggio in questo paese d'origine, che rievocherà un po' la sua vita, la sua giovinezza, una donna che era innamorata di lui, che la stava per sposare, insomma in qualche modo, come dire, è un ritratto molto affettuoso anche di questi personaggi, ma di un'America che profonda, che sta per scomparire, e con questo tono sempre comico, divertito, leggero e affettuoso. Andrea, non so se sei d'accordo, ma credo che tra gli elementi che hanno rappresentato un po' lo scarto rispetto lo slancio rispetto ai film precedenti, c'è un grosso lavoro sulla sceneggiatura, sui dialoghi e sui paesaggi e sulla una splendida fotografia in bianco e nero. Ma guarda, io sono entrato in questo film proprio sulla sceneggiatura e leggendola mi sono reso conto della capacità che ha Alexander Payne di coinvolgerti con dei dialoghi, con delle situazioni che senti molto reali, che senti molto credibili, dove i personaggi vengono fuori molto in maniera molto viva e vivida. Per cui insomma, quindi ha questa forza di scrittura Payne di saper raccontare quelle situazioni, gli ambienti, veramente è un grande narratore. Sì. E poi anche questa scelta di farlo in bianco e nero, un straordinario bianco e nero, un po' così, proprio per quasi atemporale, cioè il film è ambientato oggi, ma insomma è come se fosse un viaggio un po' in un'America, come dicevo prima, che sta scomparendo, un'America. Perché ci sono appunto questi coetanei di quest'uomo che ha una certa età, poi ci sono quelli più giovani, un'America anche della depressione, di certi luoghi dove insomma non si ha difficoltà a trovare lavoro, dove tutto è un po', come dire, non splendente e brillante, ma un po' polveroso, e questo bianco e nero rende bene quell'atmosfera lì, così come rende benissimo, sì, questi paesaggi estesi, perché è anche un viaggio un po', sì, sì, on, sì, the road, sì, cioè questi paesaggi di campagne, fuori dal tempo anche. Sì. Sì. Senti Andrea, come mai questa decisione di portarlo in Italia da parte della Lucky Red? Ma insomma, un po' noi tradizionalmente siamo molto orientati dai registi, cioè dagli autori, ci piace seguire quegli autori che amiamo, come il caso appunto di Wes Anderson, come il caso di Kashish, come il caso di De Cohen che uscirà a febbraio, e Payne era uno di quei registi che da sempre avevamo ammirato e seguito. Sì. Però è sempre stato distribuito da major americani. In questo caso siamo riusciti ad avere i diritti per l'Italia, nonostante il film sia un film Paramount negli Stati Uniti, insomma, proprio anche grazie alla nostra fama che abbiamo di lavorare bene sui film d'autore, siamo riusciti finalmente a poter lavorare con Alexander Payne. Oh, in sala da oggi giovedì 16 gennaio, in quante copie, Andrea? Le copie sono circa 80 e buon numero, insomma, distribuite in tutta Italia, naturalmente grandi città e provincia profonda. Bene, allora io ti ringrazio, un abbraccio Andrea, a risentirci presto per le prossime novità. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Andrea Occhipinti di Lucky Red per la distribuzione del film Nebraska di Alexander Payne in sala da oggi giovedì 16 gennaio. Questo è Visionari, il giovedì il cinema su Radio Onda Rossa dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ben ritrovata Nicoletta Romeo, in questo caso responsabile della programmazione del Trieste Film Festival dal 17 al 22 gennaio. Ciao Nicoletta. Esatto, buongiorno. Tanto auguri con un po' di ritardo. Grazie mille, ricambio di cuore. Allora, noi ci occupiamo nel tempo sempre di meno di festival, però ci interessano quelli che hanno una dimensione umana e poi magari quelli che sono al sud o nella provincia. Nel caso del Trieste Film Festival lo seguiamo da sempre perché è un vero e proprio festival mitteleuropeo. Sì, è un festival che da 25 anni si occupa esclusivamente di cinematografie dell'Europa centro-orientale. Non a caso a Trieste, osservatorio privilegiato su queste aree che in questi anni sono cambiate moltissimo, e il festival è un po', diciamo, ha sempre fatto il punto non solo ovviamente su questi paesi, ma proprio sul cinema di questi paesi, che ci appassiona sempre moltissimo. Sì. Allora, le caratteristiche di questa edizione, raccontacele un po', Nicoletta. Guarda, brevemente, l'impianto del festival non è cambiato, quello tradizionale. Abbiamo sempre i nostri concorsi internazionali, tutte anteprime italiane, sia di lunghi che documentari e corti. Ci sono ovviamente sempre molte novità, noi ogni anno aggiungiamo novità per così interessare il nostro pubblico. Quest'anno, per esempio, una delle novità che così mi piace segnalare è una nuova sezione dedicata al cinema e all'arte, con il, come partner mediatico abbiamo il canale satellitare Sky Arte. Quest'anno è proprio così, è un po' una nuova incursione nel mondo dell'arte, dell'arte contemporanea che incontra il cinema e crea proprio nuove visioni, nuove percezioni del reale. Così mi piace segnalare un titolo tra tutti, che è un documentario del cineasta sloveno Damian Kozole su Ulay, storico performer anni 70 e storico compagno, ex compagno di Marina Abramovic, che tra l'altro sarà con noi come ospite d'onore. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti la mole di opere che presenterete e poi se è prevista anche la presenza degli autori. Sì, gli autori, chiaramente è sempre complicato averli tutti, insomma è un periodo dell'anno non facile, stretti tra le feste di Natale e il Festival di Berlino che avanza, ma comunque ci sono decine e decine di autori che vengono coccolati, vezzeggiati dal nostro festival, a loro dedichiamo ovviamente molto tempo, e ormai, diciamo, in questo mondo in cui si va sempre meno al cinema ed è sempre difficile accedere al buon cinema di qualità in televisione, il nostro festival, come tanti altri festival della nostra dimensione più o meno, rappresentano un'occasione unica per vedere film altrimenti invisibili in Italia e per incontrare gli autori, quindi un'occasione unica non solo per la visione di buon cinema, ma proprio un incontro. E quante le opere più o meno? Le opere sono circa un centinaio, tra corti, documentari e lunghi, e ovviamente con molte molte anteprime italiane. Cosa si sta muovendo nell'Europa centro-orientale, Nicoletta? Si sta muovendo molto, sono paesi di grande vitalità, vitalità artistica, vitalità cinematografica. Mi preme ricordare come quest'anno forse i tre paesi che in assoluto hanno prodotto di più in tutti i generi, sia di fiction che documentari, sono la Slovenia, l'Ungheria e la Polonia. Tre paesi che continuano a sorprenderci per l'altissima qualità delle proposte. Slovenia, tra l'altro, paese a noi vicino e che continua, nonostante difficili situazioni economiche, come d'altronde anche le nostre, riescono invece a sorprenderci con film veramente bellissimi. Ricordiamo per esempio Class Enemy, un film che noi presenteremo fuori concorso e che abbiamo già potuto ammirare all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, alla Settimana della Critica. Insomma, tanti autori giovani ed emergenti che affiancano autori più grandi, insomma veri e propri maestri di queste aree. A questo punto ci lasci i riferimenti internet, Nicoletta? Certamente, seguiteci per informazioni su modalità di ingresso, programma, fotografie e quant'altro, www.triestefilmfestival.it, ma siamo anche su Facebook e su Twitter. Perfetto, è stato un piacere come sempre, ci risentiamo per le prossime novità, Nicoletta. Assolutamente, teniamoci in contatto e viva il cinema dell'Europa dell'Est. Ciao, un abbraccio. Ciao, arrivederci. Nicoletta Romeo, responsabile della programmazione del Trieste Film Festival dal 17 al 22 gennaio. E ritroviamo Sergio Ponzio del Cine Club de Tour, che è ripartito alla grande con la nuova stagione. Ciao Sergio. Ciao Federico, ciao, buongiorno a tutti. Allora, con te per parlare di un film in programmazione dal 15, quindi da ieri, fino al 22 gennaio, mi interessava molto, ne ho letto un po' sommariamente in giro, però insomma mi incuriosiva molto questa storia. Stiamo parlando di The Gatekeepers, allora dici un po' di questa operazione che vi ha portato a programmarlo, Sergio. Sì, siamo ormai in contatto con questa Wonder Pictures, una ottima distribuzione, veramente encomiabile il lavoro che stanno facendo per riuscire a a salvare dall'oblio molti bellissimi documentari internazionali vincitori o comunque diciamo che hanno girato festival di mezzo mondo e che poi non trovano il solito collo di bottiglia nella distribuzione italiana e ancora più che nella distribuzione poi nella possibilità effettiva di uscire nelle sale. Quindi abbiamo stretto diciamo un accordo con loro che già ci ha portato felicemente diciamo a riprogrammare Sugarman e che poi rifaremo anche a febbraio perché c'è ancora grande richiesta di Searching for Sugarman. Questo The Gatekeepers è in italiano i custodi di Israele, è un lavoro israeliano, regista Dror Moreh del 2012 e anche questo documentario ha girato Sundance, il Toronto Film Festival, Telluride di Colorado, il Festival Internazionale qui in Italia a Ferrara e racconta in una maniera anche sconvolgente di quello che è stata la politica interna ed estera e le tattiche, le strategie condotte per far fronte a presunti o reali diciamo minacce terroristiche nello Stato israeliano nei confronti diciamo dell'esterno. E come lo fa? Lo fa alternando sicuramente del inedito materiale storico molto interessante, sì, a interviste a sei ex responsabili dello Shin Bet, che è il misteriosissimo super segreti, servizi segreti ancora più segreti dello stesso Mossad, che parlano senza peli sulla lingua e raccontano di tutte le azioni o comunque delle più a volte anche sanguinarie senza scrupoli, senza diciamo prive di quello che noi potremmo definire una morale, quindi strategie di assassini mirati, dei sospettati di terrorismo. La loro opera, che appunto doveva essere di prevenzione, spesso poi si traduceva in una famosa prevenzione in tattiche di anticipare la stessa minaccia, sì, e questo portava delle conseguenze di uccisioni di massa e anche tortura eccetera. Mm-hmm. E tutto questo è dalla guerra dei sei giorni, quindi dal 67 fino ad oggi. Queste persone raccontano di aver agito senza alcuno scrupolo ed erano quelli che poi alla fine erano al comando, erano quelli che erano nella sala dei bottoni, sicuramente più importanti degli stessi governi che si sono succeduti da allora in Israele e hanno influenzato sicuramente anche la politica estera di stati ben importanti come gli stessi Stati Uniti e i paesi europei. Sergio, ha comportato dei rischi, immagino, questa operazione sia per i testimoni coinvolti sia per chi ha lavorato al film materialmente? Guarda, in realtà è strano, nel senso che il documentario, sì, ha avuto un'uscita anche in Israele sulla televisione pubblica, chiaramente suscitando accese polemiche, sì, di una parte del paese, di una parte politica, diciamo di una parte dell'opinione pubblica, ma non è stato censurato. È come se la nuova onda anche del cinema israeliano stesse tentando un'operazione anche di ridefinizione della propria identità e anche alla luce diciamo di azioni commesse nel passato che vengono diciamo svelate, vengono ridefinite come azioni diciamo non morali, non accettabili per un paese democratico. Mm-hmm. E una sorta di autocritica collettiva, una specie di diciamo di tendenza quasi psicanalitica a rivedere se stessi. Questo c'è sia nei documentari, c'è anche nel cinema di finzione, basti pensare a Big Bad Wolves, che è un bellissimo thriller. E quindi sì, sicuramente il regista non è amato da tutta l'opinione pubblica israeliana, né sicuramente dall'attuale governo, e sicuramente gli ex dirigenti dello Shin Bet possono parlare perché sono ex dirigenti e più sono lontani nel tempo, quindi Per esempio c'è uno di loro, si chiama Avram Shalom, che ha guidato lo Shin Bet negli anni 80, e lui sicuramente può permettersi un maggiore distacco rispetto alle ultime decisioni che sono state prese. Sì, sì. Ma ci sono parole forti, insomma, perché alcuni di loro parlano comunque di un futuro molto cupo per lo Stato di Israele. Un'altra frase, insomma, abbastanza che fa riflettere è quella che viene detta, per cui si dice: abbiamo vinto tutte le battaglie militarmente parlando, ma stiamo perdendo la guerra. La guerra è probabilmente anche una guerra di propaganda, cioè l'idea che poi della causa anche dello Stato di Israele si ha nel resto del mondo, e anche rispetto alla stessa possibilità di instaurare un processo di pace e portarlo a compimento. Quindi sicuramente è un film che ha provocato shock dentro e fuori Israele. Suscita polemiche, però diciamo non ci sono state vere e proprie situazioni proprio di vero e proprio boicottaggio, insomma, ecco. Sergio, due curiosità, due che secondo me sono poi i punti focali della questione legata allo Stato di Israele. E visto che anche che hai parlato poi della stanza dei bottoni, mi chiedevo se nel documentario emerge la questione del nucleare, delle testate nucleari, e poi l'altra questione, quella fondamentale in tutti i futuri processi di pace, quello delle colonie. Sì, sì, si parla sicuramente delle colonie. L'argomento del nucleare, diciamo, è dato un po', è messo tra parentesi, viene inteso, ma non è esplicitato dichiaratamente. E l'aspetto delle colonie diventa sempre più rilevante con l'andare del tempo, ed è una questione, quella delle colonie, che comunque gli stessi cittadini israeliani cominciano a vedere anche come un problema, un problema reale anche per la loro stessa, diciamo, economia, perché le colonie devono essere difese con ingenti mezzi, e quindi creano anche un po' di questioni anche a chi magari non avrebbe non sarebbe schierato politicamente, ma non può più sopportare l'idea che ci siano dei pochi coloni super militarizzati che però poi pretendono sempre di essere difesi, no? in ogni situazione dallo Stato, e diciamo a spese di tutti i contribuenti. Questo è un argomento sicuramente che passa il discorso sulle colonie. C'è un paragone che viene fatto a un certo punto, e uno di questi eroi di guerra paragona quello che Israele ha fatto negli anni ai danni della Palestina con quello che è stato fatto dai nazisti, non nei confronti degli ebrei, attenzione, perché questo non lo potranno mai dire, ma nei confronti dei paesi occupati dalla Germania nazista, quindi della Polonia, della Repubblica della Cecoslovacchia, dell'Olanda, no? Quindi insomma, questo è già, mi sembra abbastanza forte come proposta, come dichiarazione. Beh, mi sembra che di elementi di interesse ce ne siano parecchi. Allora ricordiamolo: The Gatekeepers, questo è il titolo dell'importante documentario israeliano, da ieri fino al 22 gennaio al Cine Club de Tour. Ci dai in chiusura, Sergio, i riferimenti internet? Sì, e il sito è sempre lo stesso, anche se l'abbiamo rinnovato, è tutto nuovo, e quindi invito tutti a andarlo a vedere: www.cinedetour.it. Dal sito potete anche iscrivervi alla nostra newsletter, vi aggiorneremo costantemente sulla programmazione. Bene, e tanto noi comunque vi seguiamo e ogni tanto vi facciamo dire in prima persona quello che state sviluppando. E vi ringraziamo sempre. Ti abbraccio, Sergio, a presto. A presto, ciao. Federico, ciao, buon lavoro, ciao. Sergio Ponzio del Cine Club de Tour. Ecco noi Alessandro Gagliardo del collettivo Malastrada, che presenterà il documentario Mito Antropologico Televisivo al Teatro Valle Occupato il prossimo 21 gennaio. Intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ti do subito due dritte per sistemare un po' il tiro. Credo che sia il 20 o il 21, netto, giusto? Sì. Ma il titolo è Antropologia, all'interno del quale c'è un mito antropologico televisivo. Ok, allora. È un lavoro di 4 ore che comprende diversi lavori in un unico filo narrativo. Il cui titolo appunto è Antropologia. Antropologia. Allora, Alessandro, intanto partiamo dalle origini. Il collettivo Malastrada, raccontaci un po' la sua esperienza. Ma in realtà collettivo è una parola con la quale ci siamo scontrati sin dall'inizio e che non ci riusciamo bene a togliere di dosso. Malastrada non è stato altro nel tempo che l'incontro di diverse persone, l'incontro di diverse fortune, l'incontro di diverse tragedie. Il risultato di tutto questo ha costruito un percorso che è lungo più o meno 8 anni, che nel tempo genera forme, dà notizie di sé in forma di film, in forma di ricerche, in forma di pubblicazione. E nel tempo Malastrada ha fatto questo, ha creato, ha messo in contatto, ha frequentato, è stata in qualche maniera un connettore di ricerche, di idee, si è spinta verso bordi come quelli del fallimento e ne ha tratto degli insegnamenti e si continua. Sì. In realtà non c'è una definizione esatta di che cos'è Malastrada, è un'occasione, di volta in volta diventa qualcosa. Più o meno quante sono le persone che stabilmente lavorano a questo progetto? Stabilmente tre persone. Generalmente sono sempre tre, sì, più o meno stabilmente, diciamo. Allora arriviamo adesso invece a questo importante lavoro, 4 ore per Antropologia. Raccontaci un po' di cosa si tratta, Alessandro. Ma se non sbaglio parlavamo con te un paio di anni fa del mito antropologico televisivo a Torino e lì ti raccontavo del fatto che la televisione un po' era diventato il punto di osservazione, sì, privilegiata di un punto di vista privilegiato per quello che riguardano sia la politica che la società, che la cultura, che l'estetica, che l'antropologia. Abbiamo applicato questo sguardo antropologico alla televisione e l'abbiamo declinato. Dopo il mito antropologico televisivo ci sono venute diverse idee, tra le quali il fatto che la televisione poteva essere una posizione da assumere nei momenti in cui avvengono le cose nella realtà, cioè laddove si crea lo spazio della cronaca, e abbiamo fatto questo esperimento posizionandoci proprio all'interno degli episodi di cronaca, che ne so, come le commemorazioni dell'uccisione di Falcone Borsellino, come delle conferenze stampa in Parlamento, come i momenti delle votazioni in Parlamento, e noi siamo stati lì, diciamo così, con la posizione televisiva, abbiamo documentato, abbiamo fatto un racconto posizionando lo sguardo televisivo da un'altra parte. A tutto questo abbiamo mischiato archivi che abbiamo recuperato nel tempo e brutture, bellezze che la televisione ha prodotto, diciamo, negli ultimi 20 anni. Mm-hmm. E da tutto questo nasce un testo visivo che appunto è Antropologia, che cerca di declinare quest'idea dell'antropologia televisiva a partire da un archivio fino alla possibilità di utilizzare la posizione della televisione come una posizione politica, sì, cosa sì, che nel tempo è stata sempre più in qualche maniera viziata dal punto di vista critico e abbandonata dal punto di vista creativo. Ecco, qual è in particolare il segno di questo archivio televisivo su cui avete puntato? Ma la logica dell'archivio è una logica molto ampia da questo punto di vista, però quella su cui ho puntato noi per scoperta, così per prossimità, è stata quella degli archivi delle televisioni locali. Come ti dicevo un paio di anni fa, il punto degli archivi televisivi locali è che lavorano su un territorio ristretto per molti anni, sì, avendo ad oggetto, diciamo, uno spazio di cronaca e quindi una collettività ben precisa. Quindi le televisioni locali sono diverse dalle televisioni provinciali o regionali o nazionali, sono delle entità molto piccole che delle volte coprono 2 o 3 paesi e che seguono quella cronaca. Là dentro, per questa presenza quotidiana, per questa ristrettezza, diciamo, territoriale e per la capacità di documentare quotidianamente quelle che sono i momenti in cui la società si produce in forma di cronaca, ci sono delle particolarità e soprattutto c'è il tessuto primordiale di una grandissima narrazione, e questa grandissima narrazione, che dove nel mito accenniamo, che appunto si chiama che per noi è un mito da quel punto di vista, questa grandissima narrazione è uno dei punti di partenza attraverso la quale svisceriamo questi archivi e tentiamo di creare le tele. Sì. Ecco, Alessandro, Parlavi prima di una data temporale precisa, i funerali di Falcone e Borsellino. Ecco, da quel momento in poi le televisioni locali cosa hanno prodotto di rilevante e che vi ha portato a prestare attenzione? No, da quel momento in poi in realtà proprio all'interno di Antropologia l'uccisione di Falcone e Borsellino inizia con una descrizione dicendo che Falcone e Borsellino non sono altro che due figure all'interno di un panorama di morti. Il problema è che lì ha giocato un ruolo fortissimo invece tutto quando l'estate della televisione nazionale, perché noi siamo arrivati ad avere la creazione di due figure come quelle di Falcone e Borsellino, che sono ormai due soggetti televisivi eroici utili alla moderazione di qualsiasi forma di etica, diciamo così, di massa. E quindi nelle televisioni locali non è accaduto niente di particolare. L'uccisione di Falcone e Borsellino però è stato ed è un espediente in qualche maniera di televisione, ormai di Stato, che quotidianamente produce forme di santificazione. Noi siamo andati dentro i momenti in cui queste forme si producono, okay, dentro i momenti delle celebrazioni di Falcone e di Borsellino, per vedere come puntare la telecamera e descrivere in effetti questo tipo di interpretazione dei fatti. Sì. E da lì è nato un pezzo di lavoro. Anche perché, come dicevi, la santificazione è uno, la creazione di monumenti, la santificazione di personaggi è il modo migliore utilizzato poi da qualsiasi potere per sterilizzare il messaggio invece che di cui sono portatori. Ma sì, assolutamente, perché se tu vedi quelle celebrazioni, cioè, non so nient'altro che Claudio Baglioni che ti canta una grandissima canzone che dovrebbe fare emozionare Zecchi, il presidente del Senato, che ha un ricordo di un accendino che dovrebbe commuovere lui e la platea, la sorella di Falcone che è seduta nello scherno più alto del tribunale, che è una scena che comunque non si regge in piedi da nessuna parte, e il presidente della Repubblica con un cuoricino disegnato dalle scuole sul petto che applaude a Baglioni, e ti rendi conto che comunque parole che erano state dette da Falcone, diciamo così, guizzi di intelligenza che queste due persone avevano avuto, che avevano scritto, che avevano detto, loro come tantissimi altri morti all'interno di un panorama che fa la storia di questo paese, non sono né citati, né detti, né raccontati, né valorizzati. Quindi sono due rivoluzionari di Stato asserviti a una logica narrativa di Stato un po' paracula, diciamo, totalmente paracula. Beh, ci sarà modo di parlarne anche con voi. L'appuntamento è il prossimo 21 gennaio, quindi la prossima settimana, al Teatro Valle Occupato, se non sbaglio a partire dalle ore 20, vero Alessandro? Sì, è così. Perché sarà poi una proiezione fiume, 4 ore, ma ci sarà modo di parlarne sia prima che dopo con voi. Sì, spero di sì. Bene, a questo punto un abbraccio, ci si vede il 21. Dai, con piacere, vi aspetto. Ciao, Alessandro, ciao. Ciao. Alessandro Gagliardo di Malastrada, visto che collettivo preferiscono non usarlo. Parliamo adesso di un documentario che è stato presentato qui a Roma la scorsa settimana al Nuovo Cinema Aquila. Si tratta di EU013, l'ultima frontiera. Ne parliamo con Alessio Genovesi, che ne è il regista, insieme a Raffaella Cosentino. Alessio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao ragazzi, buonasera. Allora, poi parleremo anche dei prossimi appuntamenti, che sono abbastanza prossimi. Di cosa si tratta, Alessio? Cos'è questo lavoro? Questo è sicuramente il primo film documentario che è riuscito ad entrare all'interno di quelli che sono i nuovi lager dell'era moderna, le nuove istituzioni totali che l'Europa ha prodotto come effetto del appunto della creazione di un sentimento comunitario nuovo, di una nuova identità. Sì. E in quali di questi centri di identificazione ed espulsione sul territorio italiano siete riusciti a muovervi? Noi siamo riusciti a entrare in tre strutture, quella di Trapani, quella di Bari e quella di Ponte Galera a Roma. Sì. Il lavoro, diciamo così, è iniziato appunto dal chiedere, dall'approcciarsi a quella che poteva essere la... Caduta la linea, riproviamo. Ecco Alessio, ti abbiamo recuperato. Allora stavi parlando di questo ingresso nei tre centri di identificazione e espulsione. Sì, scusate ragazzi, ma la linea è caduta inaspettatamente. Quello che volevo dire è che sicuramente il lavoro iniziato, diciamo, il primo vero ostacolo che siamo riusciti a superare è stato proprio l'accesso a queste strutture, che sono strutture che esistono in Italia da 15 anni e soltanto rare volte con difficoltà estreme dei giornalisti o degli attivisti sono realmente riusciti ad entrare in questa struttura. Il processo, diciamo così. A questo punto riproviamo la prossima settimana per parlare di questo lavoro. E allora cambiamo per parlare di un altro documentario per la regia di Aldo Silvestri, Matriarchè, che sarà programmato qui a Roma, a Blutopia, sabato 18 ottobre. Aldo, intanto benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa. Un titolo che è legato anche a un'opera scritta, un libro. Raccontaci un po' di questa operazione. Allora, questa operazione è un'operazione innanzitutto fatta da tre persone, quindi ringrazio Francesca Colombini e Monica Di Bernardo, che sono le due autrici. E l'abbiamo fatto costi zero, con dei tempi al di fuori del lavoro, quindi è proprio un lavoro costruito nei tempi possibili. Detto questo è un documentario che noi abbiamo cominciato a realizzare 4 anni fa, che è un documentario che si è formato mano a mano che conoscevamo le persone, cioè in poche parole noi conoscevamo le persone e insieme facevamo un'intervista a questa persona, nel senso che non era un rapporto proprio di intervistatore e invece di studioso che ci parlava, ma era una costruzione di un'idea di diffondere di uno stato diverso, di una vecchia e nuova idea, di un cambiamento delle cose, di noi e di rapporti sociali, d'amore e quant'altro, insomma. Matriarchè, noi l'abbiamo chiamato matriarchè, che non è il matriarcato in senso lato, insomma, come la parola, e come dice Haide è un termine che, come non è la sopraffazione delle femmine come è il patriarcato o come si può intendere, ma matriarchè è origine delle madri, teorizzando una società fondata sulla collaborazione e l'equilibrio tra i generi. Quindi come esistono donne patriarcali, e potrebbero essere anche uomini matriarcali, nel senso che quello che si dice nel documentario soprattutto è il rapporto che si ha con la natura e quindi anche con le persone, ma soprattutto è le fondamenta di come si può formare una società. Il matriarchè dice che si può fondare una società sull'amore, sulla cura e soprattutto non sull'accumulo, ma su la condivisione dei beni che la terra ci può dare, sì. E anche dei beni economici, nel senso che poi tutta la parte economica è una costruzione fatta da una società patriarcale, piramidale e quant'altro, insomma, poi non voglio entrare proprio nello specifico, sì. E soprattutto chi spiega un metodo che è il metodo del consenso, sì. Che è un metodo alternativo alla democrazia. Sì. Oh Aldo, Matriarchè, volevo chiederti anche quali sono i riferimenti storici, politici, sociali di questa visione. Allora, i riferimenti storici, politici, sociali, veramente storico va molto lontano, perché dal paleolitico al neolitico fino, sì, al bronzo, insomma, sì, le società matriarcali in maniera storica. Ci sono degli storici che spiegano questo, delle storiche che spiegano questo nel documentario e anche nel libro. Perché, scusa, volevo dire questa cosa del documentario e il libro. Il documentario è nato il documentario, abbiamo finito il documentario, una volta che abbiamo fatto il documentario poi hanno fatto il libro Francesca e Monica. Quindi viene prima il documentario. Quindi viene prima il documentario. Okay. Questo non volevo dire prima. Sì. Mi ero dimenticato. E quindi ci sono degli storici, che è una storia alquanto nascosta, che non viene neanche studiata in età scuola, insomma, si passa dal preistorico ai romani e si salta tutto un periodo molto ampio di storia, che era delle popolazioni dove non c'era, insomma, non erano guerrieri ma erano più coltivatori, e tutto quello che è il paleolitico e il neolitico, con società matriarcali che, sì, si fondavano sul matriarcato. Non, infatti, l'archè sarebbe che viene da lontano, archeotipo, e che sono società fondate su un dove non c'è potere, dove c'è un rapporto circolare, sì, tra l'altro, un rapporto anche con la terra, soprattutto legatissimo alla terra, cioè, come dire, c'erano i dei della terra, insomma, del sole e queste cose qua. Dimmi. Sì, no, che rispetto a questa alle ricerche storiche ci sono importanti scoperte archeologiche in tal senso per tutta l'area mediterranea, che testimoniano la presenza di grossi insediamenti di società matriarcali, come dicevi tu, legate all'allevamento, sì, e alla coltivazione. Sì, soprattutto in Sardegna, poi anche in Turchia, insomma, ci sono molte, molte cose. Ma lì c'è Genevieve, che è una storica che ha studiato tutto quanto questa parte storica matriarcale. Sì. Però quello che volevo dire è che, sì, c'è tutta questa parte storica, però noi facciamo vedere delle società matriarcali che sono odierne. Sì. Cioè, noi nel senso vogliamo riportare noi partiamo da quello che è storico, però neanche legandoci tanto su quello lì che è storico, vorremmo riportarlo alla situazione odierna, e quindi facciamo vedere anche una società matriarcale che si chiama Nimoso, che è una società che vive in Cina, alle pendici dell'Himalaya, che hanno tutta un'organizzazione sociale abbastanza diversa dalla organizzazione sociale che abbiamo noi. Non è fondata sulla famiglia di matrimonio tra padre e madre, ma è fondata su un altro tipo di famiglia, con i rapporti d'amore abbastanza diversi dai rapporti che abbiamo noi di legame, oltre che affettivo, anche di organizzazione familiare, e quindi all'interno di tutto quanto una serie di costrizioni che ci portano poi ad avere dei rapporti abbastanza violenti all'interno della famiglia, e anche un rapporto economico e sociale abbastanza diverso, nel senso che non c'è l'accumulo, non esiste chi ha di più e chi ha di meno. Quando si vede che c'è una situazione di accumulo, tutto quello che è in più si cerca di dare alle altre famiglie, alle altre componenti della società che stanno messe più male, insomma. Questo succede anche in una popolazione che vive in America, vicino al Messico, cioè città del Messico, come si chiama la parte americana del New Mexico. Ecco, proprio in base a questi due esempi che ci hai fornito, è innegabile che questo tipo di società siano state storicamente messe ai margini dalla sopraffazione e dalla violenza di altre popolazioni, di altre strutture sociali. Ma c'è proprio una nel senso che i due nomi, patriarcale e matriarcale, visti come uomo e donna, sono abbastanza non sono veri, insomma. C'è una società patriarcale che è nata tantissimo tempo fa, partirei da Romolo e Remo, dai romani, poi dal cristianesimo, che ha creato una società piramidale, sì, e quindi è una società di potere, no? Dove c'è il potere, dove chi c'ha più, chi c'ha meno. E oggi viviamo in una società piramidale con, dove il potere è il potere economico, insomma, e che quindi in questa società piramidale noi viviamo in dei modelli, dei modi di vita che non siamo incastrati in questo tempo, insomma, che viviamo così e non riusciamo a tirar fuori quello che noi desideriamo nella vita. Rincorriamo delle idee, no, di benessere, che non è poi secondo me la realtà del nostro benessere. Sì. Il nostro benessere è un benessere più di rapporti con le persone, tra di noi, e di rapporti con la terra, di rapporti nel come dire, curare quello che abbiamo intorno invece di conquistare. Sì. Queste sono un po' le diversità tra una società patriarcale e una società di matriarcale, insomma, io direi più donna lineare, come si dice? Matrilineare. Matrilineare. Sì. Ecco, no? Aldo, una curiosità. È una società più di cura, che tutti possono curare quello che noi abbiamo. Una curiosità, Aldo, hai parlato di due esempi, uno in Cina, uno in Messico. Ecco, come avete scoperto questo tipo di organizzazioni? Come avete lavorato? Allora, tutto quello che noi abbiamo scoperto è stato una noi abbiamo cominciato con siamo andati a un congresso, si chiama Stregheria, abbiamo cominciato a conoscere delle persone che piano piano ci hanno aperto sempre più porte. Questo, dicevo, il documentario è stato formato mano a mano, perché da una parte conoscevamo una sociologa che faceva che studiava il matriarcato con i ragazzi nelle scuole e cercava di mettere dall'altra parte. Abbiamo conosciuto una storica dall'altra parte, abbiamo conosciuto tante persone, un mondo, ci si è aperto un mondo nuovo, no? Ci si è aperto un'idea nuova anche, no? E da lì cominciamo ad andare avanti, fino a che poi soprattutto i Moso, che Francesca Friedman ci ha dato sia del materiale video, sia che noi abbiamo intervistato, sia ci ha raccontato la sua esperienza di 6 anni che ha vissuto in mezzo ai Moso, e quindi ci ha aperto ci ha fatto conoscere questa civiltà. Sì, sì, sì. Noi volevamo andare anche a Sumatra, che c'era un altro popolo dove vivono tantissimo tempo in società matriarcale, però noi, come ho detto prima, insomma, abbiamo fatto un documentario a costo zero, cioè senza proprio avere nessun fondo, e quindi abbiamo fatto tutto quanto quello che erano le nostre possibilità. Certo. Anche il documentario, appunto, penso sia venuto bene anche per i mezzi che aveva, insomma, certo, per le possibilità che aveva. A questo punto, Aldo, io ti chiedo, intanto ricordiamo l'appuntamento sabato 18 ottobre a Blutopia qui a Roma al Pigneto. Volevo chiederti anche qualche riferimento internet per saperne di più su questo. Allora, io ti dico, il documentario, essendo fatto a costo zero, l'abbiamo messo su YouTube, quindi lo possono vedere tutti. Benissimo. Anche perché a noi ci interessa diffondere questa idea più che guadagnare la parte economica. E quindi su YouTube Matriarchy, il canale Video Positivo. Benissimo. Il canale di YouTube. Allora, poi siamo su Facebook con Matriarchy, la pagina Facebook. Benissimo. Aldo, io ti abbraccio, ti ringrazio. Io ti ringrazio tanto. Ci sentiamo magari per le prossime novità. Va bene. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao a tutti, ciao. Ciao Aldo Silvestri, per quanto riguarda il documentario Matriarchy, e con questo terminiamo la puntata di questa settimana di Visionari, che torna giovedì prossimo dalle 14 alle 15. Come dicevo prima, il documentario del documentario EU013, l'ultima frontiera sui CIE qui in Italia, non siamo riusciti a parlarne, ma ne parleremo la prossima settimana con qualcuno dei due registi, o Raffaella o Alessio. Per tutte le informazioni, la scaletta e altre informazioni utili le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari. C'è anche la pagina Facebook, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Alla settimana prossima.